get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao, questa volta siamo insieme Rosina e Lucilla, che sono io, e partiamo subito con un pezzo musicale, gli Skankarensis con I'm Not Afraid, e poi manderemo subito in onda un'intervista con Giovanna Olivieri sugli archivi lesbici italiani, meglio noti come ALI, e Giovanna Olivieri è del CLI, cioè del Collegamento Lesbiche Italiane. Another useless fight, saddened words ring true, leaving like a saint. Still clouds follow you. Giovanna, vorremmo sapere da te come è nato questo progetto e che cos'è, cosa sono gli archivi. Allora, il progetto è nato nel 1986, quindi ha 14 anni, e esattamente dopo l'incidente di Chernobyl, perché sembrava che c'erano così poche speranze per il futuro. Noi volevamo fare invece qualcosa pensando che un futuro ci sarebbe stato, e quindi abbiamo deciso di cominciare a raccogliere le testimonianze del passato. E il CLI ha una bollettina, no? Quindi ha una redazione di un giornale. Quindi anche soltanto per questo tipo di lavoro, negli anni da quando è nato, cioè dall'81, nonostante tutti i traslochi, le difficoltà, eccetera, aveva cominciato ad accumulare una serie di materiali, soprattutto riviste lesbiche, che venivano acquistate e scambiate grazie al fatto che poi c'era la bollettina che veniva mandata in scambio. E questo è anche uno dei patrimoni più grossi che ha in realtà in questo momento l'archivio, perché noi praticamente abbiamo alcune riviste praticamente come collana completa, altre comunque per tutti i numeri che sono usciti, di sia nazionali sia di riviste internazionali. Abbiamo lo scambio con l'Australia, gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, la Germania, la Svezia, la Spagna, il Brasile, l'Argentina, cioè tutte le riviste che praticamente escono e vengono scambiate per un accordo che c'è, e quindi questo serve a fare rete, no? E poi c'era anche tutto un patrimonio, diciamo così, non soltanto dei gruppi lesbici romani, ma diciamo dei gruppi lesbici che sono cominciati in Italia come gruppi lesbici specifici dal 80, 79, 80, 81, e nonché pian piano si sono raccolte anche tutte le registrazioni dei vari convegni, delle presentazioni di libri, della prima e seconda settimana lesbica, no? Quindi mano a mano abbiamo anche accumulato un certo archivio di audiocassette ed anche un certo archivio di video, che però, data la natura diciamo così dell'istituzione, appunto archivi, sono soprattutto documentari che riguardano o inchieste o la vita delle lesbiche o diciamo così documentari su scrittrici lesbiche, no? Non so, su Audre Lorde oppure certo. Così via. Quindi abbiamo... infatti poi di alcune cose so che insieme, no? Perché anche noi facciamo parte come gruppo poi del Centro Femminista Separatista, le abbiamo soffrito anche noi, sì. Per iniziative facciamo varie. In genere adesso c'è già molto più possibilità di vedere film lesbici, sia perché è aumentata la produzione, sia perché poi appunto quest'anno si fa l'ottavo anno del Festival di Immaginaria, quindi esiste, diciamo così, un archivio importantissimo che è quello di Visibilia, e anche un materiale accumulato, però all'inizio tutto questo appunto non c'era, certo. E quindi diciamo noi consultavamo i vari cataloghi, avevamo insieme all'epoca si chiamava Video Viola, un gruppo che aveva comprato un videoregistratore multisystem, e quindi potevamo vedere anche i video americani, e con delle donne che hanno sempre collaborato con noi o del CLI facevamo le traduzioni e poi diciamo così le proiezioni all'interno del Buon Pastore, e anche spesso sono stati prestati in giro per altri gruppi lesbici, perché facevano un rassegno, comunque per certi film venivano fatti circolare proprio per farlo conoscere, perché il compito è quello di conservare, diciamo così, ma anche di diffondere, certo. Trasmettere, quindi far parte, certo. Quindi questo è uno degli intenti, sì, degli archivi. Infatti poi noi dagli archivi, almeno questa è la mia idea, noi conserviamo le cose perché appunto sia giovani altre, ma studiose o non studiose, possano poi farne un uso che vogliono, perché il problema degli archivi è un po' questo, no? Che noi non sappiamo esattamente come poi andranno avanti in futuro le cose, no? E allora io ho pensato che per far conoscere gli archivi era molto importante non solo far sapere che esistevano, ma anche farli proprio uscire dagli scaffali. Quindi in tutti questi anni, con una certa regolarità, Noi abbiamo organizzato le mostre con materiali degli archivi. Per esempio è stata fatta una mostra su tutte le riviste che avevamo, quindi abbiamo fatto con anche un catalogo, no, di tutte le riviste che erano uscite fino a quel momento con delle schede. È stata fatta una mostra sempre storica sullo storico locale di Roma su Zanzibar, quando abbiamo fatto il compleanno a 5 anni dalla chiusura, abbiamo fatto una festa, abbiamo fatto anche una mostra con tutti i materiali che riguardavano Zanzibar. Abbiamo fatto una mostra su Lady's Almanac, che è stata chiamata Lady's Almanac, con tutte le foto reperite, erano più di 250, e con delle schede biografiche su celebre. Tutte le donne che sono vissute negli anni 20 e 30, soltanto un piccolo settore si è scelto. Poi di questo possiamo anche dire che c'è poi una tua pubblicazione, no? Sì, perché dopo, siccome c'erano tutte le donne che venivano a vedere la mostra, prendevano gli appunti sul quadernetto e chiedevano di farne qualcosa di meno complicato da spostare come era una mostra, e quindi poi dopo ne abbiamo fatto un libro, insomma, che è uscito. E che si trova alla Libreria delle Donne, sì, per si esempio. Lady's Almanac, sì, a cura di Giovanna. Ma sì. Principalmente chi è che accede agli archivi? Voglio dire, in questo periodo abbiamo anche parlato, ad esempio, di questa inchiesta di noi donne rispetto al sapere delle donne, al sapere femminista e femminile in genere. E abbiamo visto che c'è una grossissima difficoltà a reperire materiali. Normalmente chi è che accede a questi archivi? Sono studiose, sono donne in genere? Chi è che ti fa più domande rispetto alla fruizione del materiale che tu hai raccolto negli anni? Un primo impatto di solito è con la biblioteca. Spesso molte vengono anche qui perché vorrebbero avere dei libri da leggere o cercano dei libri, no? E poi un altro secondo, diciamo, impatto è quello che fanno magari, non so, le giornaliste che devono scrivere qualcosa e allora vengono qui, ma più che voler fare una ricerca fanno 4 chiacchiere, cioè gli serve più una consulenza che orienti un po' in generale, no, le cose su cui stanno lavorando. Poi ci sono molte studentesse che stanno facendo delle tesi e che cercano, per esempio, non so, ultimamente ne sono venute alcune che facevano una ricerca sul problema della maternità e quindi della riproduzione assistita, comunque come era andata avanti questo. La stessa Daniela Danna, per esempio, quando scrisse all'inizio il suo primo libro Amiche, Compagne, Amanti, venne proprio agli archivi perché lei aveva cominciato questo lavoro in Germania e poi venne qui per cercare di trovare altri materiali, eccetera. Poi naturalmente ci sono molte lesbiche che vengono perché stanno facendo delle iniziative, quindi gli servono o documenti dell'epoca oppure delle immagini oppure appunto giornali o riviste, eccetera, che loro stanno cercando. Qualcuna magari è interessata o di cinema o di musica, cioè in settori molto particolari. Allora viene qua e insomma di solito con una certa calma si cerca, perché questo è uno dei problemi, gli archivi purtroppo non sono computerizzati, non abbiamo mai avuto sufficienti fondi per poter fare questo lavoro, quindi il materiale è sistemato ma non è neppure tutto quanto schedato, cioè questo lavoro è enorme e noi non riusciamo a farlo in modo sistematico e continuativo. Soprattutto con tutti i traslochi che abbiamo avuto in questi ultimi 2 o 3 anni, dato le condizioni un po' complicate con cui lavoriamo adesso a Buonpastore, perché stiamo attendendo la nuova sede. Senti Giovanna, è l'altro problema, perché l'hai ora menzionato, no? Che è il problema del finanziamento, perché fare un archivio, presuppongo, no, necessiti di un finanziamento, dei fondi, dei soldi, sì. Comunque, denaro, vile denaro. Allora, come vi siete organizzate voi per risolvere questo problema? Perché anche comprare, acquistare libri, immagino, no? Che necessiti di soldi, oppure avete delle donazioni? Come? Allora, noi di solito il lavoro delle donne che ci lavorano è volontario, quindi diciamo che le spese sono proprio le spese per mantenere aggiornati gli archivi. E abbiamo spesso avuto delle donazioni, per cui magari, non so, qualcuno ci ha regalato un fondo per poter comprare i classificatori, eccetera, eccetera. Qualcun altro invece ci ha regalato, non so, una fornitura di cancelleria. Però fondamentalmente i fondi con cui gli archivi riescono a fare le nuove acquisizioni sono in genere dovuti a delle attività ricreative che noi finalizziamo poi al finanziamento degli archivi. Le cose che in genere hanno avuto più successo sono le pescheterie dell'8 marzo. Bene, quelle a cui noi partecipiamo in tutti i sensi, sia fornendo il materiale da pescare che poi ripescando quel materiale. E esatto. Cominciamo già a pubblicizzare la prossima iniziativa per l'8 marzo, venite in massa per finanziare le donne del centro femminista separatista. Poi abbiamo fatto per esempio un programma di pubblicazioni che vengono all'inizio, diciamo così, sono state finanziate con una donazione, perché alcune compagne che avevano organizzato una vacanza avevano lavorato gratuitamente e avevano dato per liberalità quello che avevano guadagnato per far partire il progetto. Dopodiché queste si sono finanziate a vicenda, quindi non so, sono usciti alcuni numeri di questo A periodico, come lo chiamiamo noi, che è Squaderno, un libro di fumetti, Lady Salmon, un libro di approfondimenti su alcune questioni del lesbismo, tipo la psicologia, la storia e così via. Ed anche altre iniziative, tipo, non so, io vado a fare i corsi di storia del lesbismo, allora mi danno dei rimborsi spese che poi io investo negli archivi, non è che pretendo di essere pagata io. Oppure adesso sto facendo un grosso lavoro che nasce dall'archivio, cioè sto scrivendo, diciamo, la storia del centro femminista separatista dalla partenza dell'ex governo vecchio fino ad oggi, e su quello ho avuto dei finanziamenti perché ho dovuto fare un lavoro piuttosto complesso, insomma, di schedatura, documentazione eccetera, quindi una parte di questi soldi finisce sempre negli archivi. Poi, siccome la bollettina è abbastanza inattivo come rivista, spesso c'è questo travaso, no, per cui alcuni, non so, per esempio le vendite noi facciamo in libreria, anziché essere incamerate, diciamo, dalla bollettina, vengono reinvestite in libri, quindi abbiamo un doppio scambio con le librerie, loro ci fanno un po' di sconto, noi facciamo un po' di sconto. E poi ci sono le cene sociali, dove qualcuno di noi ogni tanto si offre di fare la cuoca, e quindi quello che si guadagna da queste cene, dove vengono una serie di persone a mangiare le nostre lasagne, poi finiscono i libri degli archivi. E comunque rimane valido il fatto che la bollettina, con questo processo di scambio, ci consente per esempio di non dover fare tutti questi abbonamenti, perché altrimenti con tutte queste riviste che noi sarebbe una spesa che noi riceviamo, sarebbe una spesa piuttosto lunga. Parliamo un po' della bollettina, Giovanna, che è una pubblicazione che esce da ormai... Dal 1981 il primo numero. Quindi sono ben... Facciamo 20 anni nel 2001, anni, 19 anni, già maggiorenne. Sì. Come è nata questa idea nello specifico, e chi adesso coopera, insomma collabora con la bollettina? Allora, la bollettina, che poi ha cambiato sesso durante il corso della sua vita, una volta si chiamava Bollettino, e in quanto era un bollettino dell'associazione del CLI. Quindi praticamente è nato quasi con il CLI, e la prima, diciamo così, direttrice della bollettina è stata niente di poco di meno che Giovanna Tatò, che adesso fa la giornalista a Rai 3, e che aveva anche fondato una casa editrice che si chiamava Felina, no? E poi ovviamente c'è stato nel corso degli anni un avvicendamento, anche perché appunto la bollettina richiede un lavoro piuttosto complesso, nel senso che la redazione è formata da una persona responsabile della gestione degli abbonamenti, della contabilità, eccetera, un'altra che è Graziella, l'altra che invece è Silvia, che dà una mano per tutto quel che riguarda la composizione, quindi diciamo la digitazione sul computer, eccetera. Poi c'è la nostra impagabile venditrice porta a porta, che è Aurora, che fa la distribuzione sostanzialmente. E poi abbiamo delle collaboratrici, alcune fisse come Valeria Santini, che ha una sua rubrica Detto e Non, che esce tutti i mesi, e delle collaboratrici che fanno le traduzioni, per esempio Veronica adesso fa queste traduzioni, prima avevamo Flavia, comunque c'è sempre qualcuno che aiuta per le traduzioni, perché noi nella bollettina mettiamo molto spesso traduzioni di testi dall'inglese, e comunque per poter fare anche soltanto una panoramica delle notizie internazionali ci bisogna conoscere almeno tre lingue, cioè inglese, francese, spagnolo, e qualcuna anche un po' il tedesco, ma insomma è più complesso per noi fare questo lavoro dalla lingua tedesca. Per cui poi adesso ci sono fra le collaboratrici appunto anche voi della radio, e abbiamo spesso questo scambio appunto di notizie a vicenda, voi date dei pezzi a noi, noi diamo delle notizie, voi prendete le notizie dalla bollettina. E poi dopo ci sono le vignettiste, sono stati nel corso degli anni prima Sara, poi Morin, e io spero sempre che poi arrivi qualcun altro, perché la vignetta in sé è quasi come in sintesi un pezzo dell'editoriale del giornale, perché quando è ben riuscita una vignetta racconta una storia, insomma, sì, secondo noi, no? E beh, comunque anche la bollettina si mantiene abbondantemente con gli abbonamenti e le vendite, anche senza la pubblicità, che insomma è un esperimento piuttosto raro. Infatti, anche perché abbiamo visto purtroppo fior di riviste cadere invece verticalmente. E va bene. L'altra cosa che ti volevamo chiedere è il progetto, come va avanti, secondo te, cioè come è possibile continuare a far vivere l'ALI, e dove pensi che questa impresa femminile lesbica possa portare, insomma? E io ho avuto un obiettivo sempre abbastanza piccolo, che è stato quello intanto di raccogliere e conservare, perché altrimenti nessuno avrebbe potuto poi avere in realtà questa eredità, no? Perché secondo me uno dei grossi problemi della trasmissione al femminile della cultura è proprio questa separazione netta che avviene a un certo punto fra le donne del passato e quelle del futuro. Non c'è una tradizione che conservi, se non per pochissime addette, la memoria di quello che è già successo. Questa è proprio una tendenza per cui tutte le giovani generazioni ricominciano sempre da capo, no? Quindi per me questa era la questione fondamentale, motivo per cui io faccio poi conoscere gli archivi, anche se io sono in ritardo, grave ritardo sulla classificazione, preferisco però fare progetti in cui alcune cose dell'archivio escono fuori, quindi mostre eccetera eccetera, perché questa cosa secondo me dà appunto un futuro, no? Fa conoscere alle donne il diciamo così, il progetto. Attualmente stiamo cercando insieme agli altri centri di documentazione del Centro Femminista Separatista di fare un tentativo di fare un progetto unico di archivi, dove ciascuno mantiene la propria fisionomia, la propria autonomia, però ci associamo per poter organizzare meglio sia la possibilità per le utenti, chiamiamolo così, quindi il servizio, vero e proprio, sia soprattutto di poter organizzare, ottenendo chiaramente dei fondi, perché altrimenti non è possibile, non solo il lavoro in sé di schedatura e classificazione, ma soprattutto delle documentaliste in grado poi di gestire in modo adeguato questo patrimonio, perché adesso gli archivi in realtà sono donne archivio, cioè ognuno di questi archivi ha una persona magari o tenacio perché ha la passione per la carta con la vecchia e quindi col suo odore particolare, oppure per le ricerche, ma è molto difficile riuscire a creare dei gruppi di lavoro sugli archivi, perché è una questione estremamente complicata da gestire. Per cui se riusciremo dovrebbe essere una collaborazione fra il Centro Documentazione e Studi sul Femminismo, che ha tutto il patrimonio storico del movimento femminista romano e dal suo nascere fino, aggiornato sicuramente fino alla fine degli anni Ottanta, poi dopo ha avuto dei problemi di gestione perché ha fatto altro, comunque esiste questo patrimonio. Poi il Centro Documentazione Alma Sabattini, che invece raccoglie, è un centro di documentazione specializzato sull'uso del linguaggio, partendo dalla famosa opera pubblicata all'epoca da Alma, che era L'uso non sessista della lingua italiana. Poi, possiamo dirlo, sì, è stata fatta sparire perché non se ne trovano più copie. È esaurita, anche esaurita, dovrebbe essere ristampata. Sì, hanno detto che è esaurita. Così, è la mia ritira pari opportunità. Infatti. E poi l'altro invece dovrebbe essere l'archivio della cooperativa Libera Stampa, cioè della cooperativa che poi ha sempre pubblicato Noi Donne, e che ha un patrimonio fotografico straordinario, sì, no? Tutto il patrimonio, oltre ovviamente a tutto il patrimonio, perché chi fa, chi fa una rivista, a parte avere l'archivio personale della propria rivista, in genere ha un archivio enorme perché tutti mandano al giornale notizie, informazioni, certo, libri, eccetera, quindi di fatto accumula come noi del resto. Certo. E poi il vecchio archivio di Quotidiano Donna, che adesso sta in un magazzino, e quindi potendoli mettere tutti insieme dovremmo riuscire ad avere qui a Roma una cosa molto complessa. E io vorrei che in questo archivio molto complesso ci fosse l'esistenza lesbica, con tutto quello che è stato raccolto, con naturalmente dei settori non accessibili all'utenza generica, ma insomma soltanto alle utenti specializzate, specialistiche in questo. E se si riuscirà a farlo, nella nuova sede del Centro Femminista Separatista, sarà sicuramente un bellissimo progetto. Bene, io penso che potremmo anche concludere questa intervista, a meno che tu non ci voglia dire qualche altra cosa. E però un'informazione in più ce la puoi dare a questo punto, visto che hai detto che fai delle lezioni, o meglio dei seminari, come li vogliamo chiamare, sul movimento lesbico. Se ci vuoi dire se ci sono date particolari, se hai degli impegni in questo senso già programmati, così da dare come informazione, se qualcuna ha voglia poi di... Ma c'era in corso uno scambio con alcune donne di altre organizzazioni, come appunto il gruppo di Sole Donne del Mario Mieli e altre, che volevano farlo a Roma, perché io questi corsi li ho già fatti appunto a Milano, a Torino, no, a Milano no, perché poi non ci siamo accordati, a Padova e a Firenze, adesso mi hanno chiamato per farle a Bologna, e quindi si pensava di farle anche qui a Roma, però ancora una data precisa non c'è. Prima sembrava che li potessimo fare in occasione dell'8 marzo, però al momento è ancora incerto, quindi non vorrei dare una notizia che poi non è confermata. Invece io voglio aggiungere qualcosa, ed è che tutte le donne che hanno a casa un archivio personale in cui magari hanno ritagliato per anni delle notizie che ci possono interessare, cioè hanno fatto una rassegna stampa, hanno dei libri che magari oggi non si trovano più, alcuni purtroppo, quando come noi si fa la biblioteca, qualche libro ogni tanto scompare, quindi abbiamo poi il problema di ritrovarli. Però insomma, tutte le donne che pensano di poter farci avere o informazioni o notizie o archivi personali, che saranno gestiti con cura e con tutte l'affetto del caso, io sarei molto contenta che venisse, soprattutto anche archivi fotografici, comunque qualunque tipo di archivio specificatamente lesbico sarebbe gradito. Naturalmente. Allora, per questo tipo di appello che Giovanna ha fatto, potete mettervi in contatto con il CLI, che si riunisce ogni martedì dalle 19 in poi presso il Centro Femminista Separatista, telefonare al numero del Centro Femminista Separatista il martedì, o lasciare un messaggio, perché abbiamo la segreteria telefonica, come ben sapete, allo 06 6864 201, e contattare le donne del CLI. Voi oggi avete ascoltato Giovanna Olivieri, e grazie. Grazie a voi. אל הזהב המאיר את שערה הרע. Il brano che avete appena ascoltato è Miscela di Noa e ringraziamo molto Lucia per avercela fatta conoscere. Dunque, poco prima di chiudere definitivamente la propria attività, la rivista Noi Donne ha curato nel mese di dicembre una lunga inchiesta sul tema della letteratura femminista, intesa innanzitutto come prodotto e veicolo della teoria, della memoria e della cultura delle donne. Dopo l'intervista a Maria Luisa Moretti della libreria Al Tempo Ritrovato di Roma, che vi abbiamo proposto in una recente trasmissione, ci è sembrato utile continuare su quella falsa riga cercando di capire per quale motivo la vasta letteratura femminista prodotta negli ultimi 40 anni in Italia e nel mondo sia diventata pressoché introvabile, fatta eccezione per alcuni testi molto rari che possono essere reperiti con una certa facilità, diciamo così, presso le librerie delle donne e le biblioteche. Parliamo di testi considerati per così dire sacri nella letteratura femminista, scritti da autrici come Lucy Rigarei, come ad esempio Questo sesso che non è un sesso, una opera sulla condizione sessuale, sociale e culturale delle donne che a distanza di 20 anni continua ancora ad essere richiesta, oppure Betty Friedan con La mistica della femminilità, pubblicato per la prima volta nel 1964, oppure ancora Juliet Mitchell con La condizione della donna del 1972, oppure Mia madre e me stessa di Nancy Friday, più recente, essendo stato pubblicato nel 1980. Ma se questi pochi titoli possono essere ancora consultati con relativa fatica, esistono decine e decine di testi mai più riediti e oramai introvabili. Tanto per fare degli esempi, potremmo citare Luisa Muraro e il suo Ordine simbolico della madre del 91, o La lingua della nutrice di Elisabetta Rasì del 1968, ma potremmo continuare con il saggio Silenzi, segreti e bugie di Adrian Rich dell'82, oppure Il pensiero della differenza sessuale di Diotima dell'87, o ancora La politica del sesso di Kate Millett del 71, oppure I padri della fallocultura di Tomasi e Caruso, e così via, continuando a discendere nel baratro della dimenticanza e dell'oblio. Appare quindi evidente che negli ultimi anni, seppure la richiesta di titoli di opere di donne sia aumentata, è sempre più difficile reperire i testi storici del pensiero femminista, e non solo per le lettrici, ma anche per le addette ai lavori, come ad esempio le donne delle librerie. Questa difficoltà è data da una serie di motivazioni, ma la prima fra tutte è di carattere editoriale. Infatti i testi femministi di solito non passavano né passano per le grandi case editrici, provviste ovviamente di una propria distribuzione, ma passano invece attraverso i canali alternativi come il movimento e i circoli delle donne. Ciò significa che i testi in questione sono stati pubblicati con tirature ridotte e quindi ne esistono in circolazione pochissime copie e la loro ristampa, visto gli alti costi dell'operazione, è cosa piuttosto ardua dal momento che le case editrici sono più interessate ad inserire nei propri cataloghi nuovi titoli piuttosto che a ripubblicarne di vecchi e con scarso mercato. Per ovviare a questa situazione sarebbe necessario un intervento mirato sia da parte delle donne del settore che delle istituzioni per dare maggiore visibilità alla richiesta effettiva di questi testi, che è di gran lunga superiore a quello che si pensa. Infatti è già da tempo che gruppi di donne, prevalentemente studiose, si sono organizzate nell'attivazione di gruppi per la elaborazione critica del sapere delle donne attraverso i vari gender, lesbian e women's studies, coinvolgendo ad esempio anche varie università, perché non è più possibile ipotizzare oggi un pensiero politico-culturale generale senza tenere conto della importanza e dell'apporto del pensiero femminile e femminista nello specifico. A questo proposito, la istituzione presso le università degli studi della figura delle delegate di genere, voluta dalla Commissione Pari Opportunità e dalla rete 30 Something, che si occupa di ripensare gender e women's studies in Italia, potrebbe significare una garanzia per l'acquisizione di testi femministi, dal momento che saranno proprio le università a richiedere alle case editrici le varie opere, avviando quindi le condizioni necessarie alla costituzione di un loro mercato reale. Un altro aspetto del problema è inoltre il fatto che moltissima produzione teorica del femminismo non è stata tradotta nel nostro paese e quindi, pur essendo presente nel mercato, è di difficile fruizione. Tra l'altro, in paesi dove, come in Italia, è stata privilegiata l'azione politica rispetto alla produzione teorica, un gran numero di contributi sono sparsi in riviste e pubblicazioni specializzate, difficilmente reperibili. Si renderebbe quindi necessario un vasto lavoro di ricerca e di catalogazione di tutto il materiale rintracciabile per la creazione di raccolte antologiche, e quanto invece ai testi piuttosto importanti, che però rischiano di avere scarso mercato, si potrebbe ipotizzare un lavoro di scansione e di immissione nella rete telematica. Abbiamo già detto che la scarsa propensione degli editori a curare questo genere di opere fa capo alla esigenza delle case rispetto alla circolazione del denaro, ma non investe esclusivamente il settore politico. Quando si tratta di scritti di donne, infatti, la difficoltà a reperire materiale riguarda anche altre discipline. Questo, secondo le donne del settore, avviene perché i libri delle donne non entrano nella tradizione, anche se hanno avuto notevole successo. E per quanto riguarda i testi politici nello specifico, legati solitamente ai grandi movimenti delle donne, diventano sì testimonianza del passato, ma esauriscono la loro carica con la fine dei movimenti stessi. E infatti gli editori portano a propria discolpa proprio il fatto che la maggioranza di questi testi sia datata, essendo opere prevalentemente contestuali agli anni 70 e 80. Alcune collane, come ad esempio Il pensiero della differenza, sono state quindi soppresse perché agli inizi degli anni 90 non vendevano più come prima. Come a dire che dal momento che le donne non fanno più mercato, in un contesto sociale in cui la legge di mercato è la prima regola, il pensiero delle donne equivale a moneta fuori corso. In realtà esiste però un iter che dovrebbe garantire la presenza, almeno nelle biblioteche nazionali, di tutti i testi pubblicati in Italia. Infatti, per legge, gli stampatori sono tenuti ad inviare copie delle opere alle prefetture, che devono a loro volta inviarle alle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Ma spesso questa legge viene disattesa dagli stampatori, con il risultato che molte opere non vengono spedite oppure vanno perdute durante il percorso verso le biblioteche. A questo proposito esiste una proposta di legge che tiene conto della necessità che siano le stesse case editrici e non più gli stampatori ad occuparsi della spedizione dei testi alle biblioteche, ma a tutt'oggi la proposta è ancora ferma in Parlamento. Fortunatamente esistono però vari progetti operativi che garantiscono la salvaguardia dei testi per la promozione di studi e di ricerche di donne. Ci riferiamo a progetti tematici come ad esempio quelli della Università della Calabria oppure della Biblioteca Nazionale di Napoli, che insieme raccolgono circa 3.500 volumi relativi al sapere femminile, ma ci riferiamo anche alle realtà dei centri di documentazione, agli archivi e alle librerie delle donne. E proprio questi luoghi sono oggi gli unici nei quali sia possibile trovare pressoché tutti i testi femministi pubblicati in Italia e all'estero. Il Centro Documentazione Donne di Bologna, ad esempio, negli ultimi anni ha visto raddoppiare il proprio patrimonio librario e contestualmente il numero delle utenti, e continua a lavorare a pieno ritmo anche grazie a convenzioni stipulate con il Comune e con i beni culturali. Il caso della Biblioteca DVF di Roma è analogo a quella di Bologna, con la differenza però che il DVF è interamente autofinanziato, se si eccettuano sporadici contributi della Regione Lazio. Un altro caso ancora è quello del Centro di Documentazione Studi sul Femminismo, presso il Buon Pastore a Roma, che conta un vasto patrimonio relativo sia a libri che a varie riviste e pubblicazioni, che al momento non è consultabile ed è in attesa di riunirsi quando saranno consegnati i locali della Casa Internazionale delle Donne agli altri centri, come gli Archivi Lesbici Italiani e il Centro di Documentazione Alma Sabatini. Infine ci sono le librerie delle donne, alle quali spetta il grosso merito di riuscire a far circolare il sapere femminile, lavorando con passione ed intelligenza politica, in un campo che spesso consente solo bassi margini di profitto, ma che garantisce un arricchimento culturale per l'intera comunità. Gli appuntamenti. L'8 per 1000 da destinare ad associazioni di donne. È la proposta che ci arriva da Associazione Donne e Futuro. Quindi il fondo, rispetto alle denunce dei redditi, la proposta è questa, che il fondo dovrebbe essere destinato a formazione culturale e professionale, ovviamente per donne, prevenzione, sostegno alle donne che hanno subito violenza. Per informazione, Associazione Donne e Futuro, via San Francesco d'Assisi 27 Torino, telefono 011 51 87 438, fax 011 51 88 307 e l'email donne@timo.it. L'altra notizia che invece volevamo darvi è in relazione a che cosa avverrà a Roma per l'8 marzo. Allora, tanto per incominciare, parliamo del Buon Pastore. Cosa succederà? Allora, al Centro Femminista Separatista e alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1B incontriamoci solo donne. Il giorno dell'8 marzo ci sarà un buffet e una festa dalla sera e nel pomeriggio verrà presentato un libro che si intitola Il piroscafo olandese della Viganò. Questo nel salone delle feste. E poi verranno, sempre nel salone, verranno esposte opere di artiste varie. Il tutto a cura del coordinamento lesbiche romane, del collegamento lesbiche romane e dell'associazione Zora. Sempre a Roma, il 6 marzo, al Teatro in Portico, dalle 10.30, si terrà il quarto incontro sulla laicità, organizzato dalla Consulta Femminile Regionale. AFFI, Paese delle Donne, UDI, Scienze della Vita Quotidiana. Sempre il 6 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Argo di Roma, l'Associazione Cassandra Europa Teatro presenterà Mistral. E adesso andiamo fuori Roma, per ricordarvi che dal 24 al 27, a Bologna, parte l'ottava rassegna del cinema lesbico organizzata dall'associazione Visibilia. Per informazioni telefonare il mercoledì dalle 18 alle 20 allo 051 26 35 92. E ancora, se è possibile, a Brescia il 2 di marzo alle ore 21 a cura del gruppo lesbico Pianeta Viola, Amore, Eros ed altri accidenti, la sessualità. Per informazioni telefonare allo 030 2410 604. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.